famiglia di sangue, mia mamma, mio fratello, mio papà, che ricordi in questo pezzo, la mia famiglia di strada, restiamo uniti a testa alta e non molliamo mai, no. 14 anni, calzoni di fustagno, camicia di flanella appesa sopra quel castagno, coltivavi i campi, vendemmiavi tutto l'anno, asciugavi il tuo sudore con quel panno, picconi su mattoni, cacciatori ed alveari, recinti di maiali nelle case popolari, poi balle di fieno nei cortili, scarafaggi nei porcili, non avevi due denari. 12 ore in fonderia, tuo papà tornava a casa, dopo andava in osteria, tua mamma con le pentole, scarpe bucate, fango, mucche, pecore, accumulava salse sulle mensole, volevi andare via. Così un giorno dalle suore cappuccine, tagliando l'erba alta, guadagnaste 17.000 lire, partendo per Milano dal paesello montanaro, Gianfranco era maturo come il grano. Ogni uomo ha il senso della famiglia, battezzato fra verdetti e meraviglia, in allenamento con un cappio lungo il collo, girando qualche anfratto, ciampando addosso un gatto, vendevi pane nero in bicicletta per un piatto, dormendo nel retrobottega di un negozio sotto scratto, tra sacchi di farina della China, tra un borghese milanese in via Rosmini, a quella palazzina del Gallaratese in cui vendevi libri ad accendini a metronotte in via Farini, turbando dal tormento di bollette da pagare, cose da riparare, hai conosciuto compagnie cattive incocainate, che andavano a rubare moto e macchine, picchiavano a Pagano gli invertiti, con i guanti in lattice, eri uno di loro, bastoni, cani, pugni, sigarette, il tuo tesoro, ma un giorno hai conosciuto Anne e ti ha portato via da tutto questo, Gianfranco adesso legge il manifesto. Ogni uomo ha il senso della famiglia, battezzato fra verdetti e meraviglia, in allenamento con un cappio lungo il collo, condannato qua. Lui lotterà, mio papà ne sa, mia mamma ne sa, prof ne sa, Ivano ne sa, Luca ne sa, Rice ne sa, pompiamo su Milano, cosa? Questa musica, Sciaco ne sa, Stefano ne sa, Giuggi ne sa, Secolo ne sa, Jack ne sa, La Fede ne sa, la famiglia della strada, sì, di città in città, l'uomo di sangue divino, maestro sopraffino sulla tele nel giardino, stammi più vicino, io ti voglio bene, sono tuo figlio e sono vivo, Gianfranco ora sei morto, riposa in pace alpino, dallo zero primordiale sei una culla di sospiri, letto di rivoluzioni dentro i miei respiri, dallo zero primordiale sei una culla di sospiri, letto di rivoluzioni dentro i miei respiri. Ogni uomo ha il senso della famiglia, battezzato fra verdetti e meraviglia, in allenamento con un cappio lungo il collo, condannato qua, lotterà.